Nel corridoio. Ecco la sua camera. Yes, 37. Bravissima. Allora, domattina andiamo a Greve, alla festa del vino. Oh, benissimo. Ci vediamo alle 9, va bene? Alle 9? Oh, yes, va bene. Come si dice grazie for dinner? Si dice grazie della cena. Then grazie della cena. È stato un vero piacere. Buonanotte. Buonanotte. So, Lorenzo and Sarah are going to meet at 9 o'clock tomorrow morning, and later they'll go... A Greve, alla festa del vino. To the wine fair at Greve.